parlando di San Francesco Spinelli, questo santo eucaristico, come possiamo giustamente definirlo, nacque il 14 aprile del 1853 a Milano. Il papà si chiamava Bartolomeo, la mamma Emilia, erano inservienti di una nobile famiglia milanese. Al battesimo, il giorno seguente, gli fu imposto il nome di Francesco Giovanni il Defonso. Subito dopo la nascita, però, fu portato a balia nella cittadina, in un paesino a Verdello, e questo perché c'era la mamma che non stava bene. E qui a Verdello rimase affidato alla zia materna per 2 anni. Poi con la famiglia si trasferì a Vergo, un piccolo centro agricolo, e dopo a Cremona. Ma fin da piccolo, da bambino, il nostro Francesco aveva già nel cuore una particolare attrattiva sia per la Santa Eucaristia che per le pratiche di pietà. Pur essendo piccolino, a volte raccoglieva gli amici e li portava a pregare davanti al tabernacolo oppure all'immagine della Madonna. Gli amici lo chiamavano scherzosamente San Luigi, riferendosi a San Luigi Gonzaga. Intanto, all'età di 6 anni, entrò come alunno interno, presso il collegio di Cremona e qui nel maggio del 1861 ricevette la Santa Cresima. I frequenti ritorni in famiglia però gli permettevano anche di seguire la mamma. Dobbiamo dire che aveva dei genitori profondamente cristiani e di grande esempio. Questi sposi hanno avuto 3 figli, il primo è Costanzo che si è fatto sacerdote, poi arriverà Francesco e poi ci sarà una sorella che sarà l'ultima arrivata. Tornando a Francesco, dicevamo, quando tornava in famiglia andava con la mamma e la mamma andava a visitare i poveri, gli ammalati della parrocchia. E lui era felice di portare così a quelle tante persone dimenticate il suo sorriso, anche la sua gioia, la sua allegria. Nel frattempo, visti gli ottimi risultati scolastici, i genitori, malgrado dovessero sobbarcarsi gravosi sacrifici, decisero di iscriverlo come esterno al ginnasio-liceo Sant'Alessandro di Bergamo. E qui a Bergamo abitava con lo zio materno, don Pietro Cagliaroli, era il fratello della mamma, che allora era vicario della chiesa di Sant'Alessandro in Colonna. E i sacrifici i genitori non se li risparmiarono, ma anche il nostro futuro santo non deluse le attese del papà e della mamma, dando tutto se stesso e facendo un brillante percorso sia nei 5 anni di ginnasio che nei 3 di liceo, anche se purtroppo furono anni segnati da grandi problemi di salute. Infatti nell'estate del 1867, a 14 anni, già malato, mentre scendeva dal letto, cadde e riportò la lesione della spina dorsale. Pensate, per 3 anni fu costretto a usare le gruce, finché nel 1870, già si intravedeva questa via, si verificò una guarigione inaspettata, più che inaspettata fu miracolosa. Successe che, mentre era in preghiera davanti alla statua della Madonna, proprio a Vergo, nella chiesa parrocchiale del paese, avvertì di essere stato miracolosamente guarito. Praticamente era entrato in chiesa con le gocce e ne usciva senza. La gioia era grande e quindi la partecipò a tutto il paese e tutto il paese si unì nella sua preghiera di ringraziamento insieme ai genitori. E arrivò poi l'anno dopo, il 18 novembre del 71, aveva 18 anni quando si diplomò. E qui a 18 anni sentiva da sempre nel cuore questo fortissimo desiderio di consacrarsi a Gesù. Allora cosa fece? Prese il coraggio a 2 mani, ne parlò apertamente con mamma e papà di questa scelta importante e anche il suo proposito deciso di entrare nel seminario di Bergamo. I genitori, per la verità, avrebbero preferito che si iscrivesse a medicina all'Università di Pavia, ma accettarono di buon grado il suo desiderio di diventare sacerdote, come aveva già fatto in precedenza il fratello Costanzo. E qui appunto nel novembre del 1871 iniziò a frequentare il seminario di Bergamo e gli studi affinavano, possiamo dire, ancora di più la sua anima, rendendolo cosciente della missione grande che lo attendeva in futuro, una missione che lo vedeva pastore, lo vedrà pastore di tantissime anime. E questi anni del seminario furono anni pieni di carità, di preghiera, anche di penitenza. Pensate, oltre al grande impegno negli studi, lui si mise al servizio in modo meraviglioso nell'aiuto agli altri. E qui dal 1873, e quindi per diversi anni, con grande ardore ed entusiasmo, aiutò anche il beato Don Luigi Palazzolo nell'istituzione che aveva fondato della Santa Famiglia. Nel frattempo però arrivò anche la grandissima gioia. Era il 17 ottobre del 1875, un anno da ricordare, lui aveva 22 anni, e fu consacrato finalmente sacerdote a Gavarno. Fu una giornata per lui indimenticabile e la terza domenica del mese di ottobre celebrò così la prima messa proprio nella chiesa parrocchiale di Vergo e si attendeva poi di essere assegnato, come sempre, a una parrocchia del luogo. Ma il vescovo non la pensò così, perché lui era già di aiuto importante allo zio prevosto Sant'Alessandro e soprattutto al beato Don Luigi Palazzolo, quindi aveva già una bella missione da adempiere. Ma la sua ordinazione aveva riempito il suo cuore di gioia, proprio di gratitudine verso Gesù. Allora cosa decise? Per ringraziarlo volle fare un pellegrinaggio a Roma nel 1875, dove si sarebbe dovuto celebrare l'anno santo, ma sappiamo che gli eventi militari bloccarono tutto, non fu aperta neanche la porta santa, come sappiamo. Il beato Pio IX restò chiuso in Vaticano, protestando appunto contro l'invasione che c'era stata nella breccia di Porta Pia e quant'altro. Insomma, Francesco però visitò in ogni caso i luoghi santi di Roma con profondo spirito di fede e di pietà. E qui succederà qualcosa di veramente straordinario. Confiderà infatti più tardi di un fatto accaduto a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Disse: «Mi sono inginocchiato innanzi ad essa. Ad essa era la culla di Gesù bambino in questa chiesa. Piansi, pregai, e giovane allora sognai uno stuolo di vergini che avrebbero adorato Gesù in sacramento». Questa visione l'aveva folgorato, però non capiva se era stato un momento, e quindi passato quel momento non avrebbe avuto nessun seguito, oppure se era qualcosa che il Signore gli faceva capire di quello che sarebbe stato il suo futuro. In ogni caso, questa cosa la conservava nel cuore come un tesoro, era qualcosa da far crescere. Nel frattempo, proprio per la sua meravigliosa preparazione come pastore, sia a Bergamo e nei dintorni, anche per la stima che aveva da parte dei superiori, divenne presto predicatore delle 40 ore. E pensate, proprio in una di queste circostanze, cioè mentre predicava le 40 ore di Paratrici, era l'ultima domenica di Carnevale, il paese era San Gervasio d'Adda, proprio qui conobbe quella che sarà la futura Santa Caterina Geltrude Comensoli. Questa ragazza gli disse voleva dedicarsi all'adorazione continua di Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. E si partì così. Quindi nel 1882, lui aveva avuto questa illuminazione, questa visione nel 75, 7 anni dopo, il 15 di dicembre, con la prima ora di adorazione davanti a un quadro del Sacro Cuore, Don Francesco Spinelli e Caterina Comensoli, con altre due ragazze, davano inizio proprio nella città di Bergamo, in una modestissima casa, all'istituto delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento. E la cosa bellissima è che proprio l'Eucaristia fece nascere in loro un ancor più profondo amore per i piccoli, per gli abbandonati. Nel loro volto vedevano veramente Gesù. Allora non si fermavano solo ad adorare, ma accoglievano in quella povera casa i bambini bisognosi, ragazze che rischiavano di finire sulla strada, operai abbandonate a loro stesse, oppure tantissime persone con tanti problemi psicofisici. E proprio San Francesco Spinelli e le sue prime suore adoravano Gesù, diciamo, servendo e amando veramente i fratelli nello stesso stile con cui Gesù ama. Era l'inizio di un'opera che vedrà un futuro meraviglioso, anche con tante croci come vedremo, voluta da Dio e come tale presto segnata dalla croce. Nel frattempo però lui non si stancava mai di invitare le sue suore con queste parole, soprattutto per capire la grazia che avevano, e scrive: «Vi raccomando quanto so e posso l'adorazione. Figliole, il privilegio concesso a noi di avere sempre l'adorazione giorno e notte è grande. Sappiate approfittarne. Levo il mio cappello a tutti gli altri istituti per santità e sapere, ma il privilegio di adorare l'amor nostro sacramentato è concesso a noi. Sì, proprio a noi». Sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli, carità, oh carità, apri queste mani, carità, oh carità, danza con i cuori. Nel frattempo iniziarono però ad attaccarlo anche con menzogne, menzogne che lo colpirono al cuore in più occasioni. Ma nel suo calvario, come già aveva fatto Gesù, stava in silenzio, sapendo bene che Dio avrebbe rimesso le cose al posto giusto. E tutto, ogni prova, donava al Sacro Cuore di Gesù nella sua adorazione davanti all'Eucaristia. E le sue effusioni toccavano davvero l'intimo di ogni persona, possiamo dire, toccavano il cuore. E queste effusioni, questi dialoghi di amore con Gesù, sono raccolte proprio in un volume che voi trovate ancora oggi anche nelle librerie cattoliche ed è intitolato Conversazioni Eucaristiche. Sono proprio parole che sono state scritte e sono quelle che lui, che uscivano dal suo cuore, dall'abbondanza del suo cuore, quando parlava con Gesù. E diceva Gesù questo: «L'appassionata carità che ti muove a diffondere sopra gli uomini le tue beneficenze è quella che ti fa stare continuamente tra noi. Che dalla tua presenza l'anima mia venga illuminata e confermata nella fede, nella conoscenza e nell'eccellenza e sublimità dei divini misteri, e specialmente di questo Eucaristico». E proprio possiamo dire il fine, lo scopo dell'istituto da lui fondato si può riassumere in poche parole in questa sua espressione. Diceva soprattutto alle sue suore: «Adorate con l'amore più ardente l'augustissimo sacramento e attingete da esso la carità a sollievo del prossimo». Ma lui, per primo, viveva sino in fondo il Vangelo. Proprio con l'esempio trasformava i cuori di tantissime persone, soprattutto dei più lontani, e veramente trasformava queste persone, le faceva tornare a una vita di, come si potrebbe dire, di dignità anche di figli di Dio. Tornavano ai sacramenti, tornavano alla Chiesa, nonostante ancora gli fossero inviate tante frecce avvelenate che gli venivano lanciate dai nemici e lo ferivano nel profondo. Volevano bloccare la sua opera, ma lui non si fermava, sapeva benissimo quanto bene faceva a tante persone che vivevano nel bisogno. E allora continuamente spronava le sue figlie e diceva: «Negli infelici dobbiamo vedere Gesù Cristo. Basta che tu con gli occhi della fede ravvisi in ogni fratello la persona di nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha protestato che riterrà fatto a se stesso tutto quel bene che avremo fatto ai nostri fratelli per amor suo e ci glorificherà presso suo Padre nel giorno del giudizio». Un meraviglioso esempio di carità, cari amici. E la carità per noi aveva il suo volto, dirà un giovane cresciuto alla sua scuola, ed era una carità piena, totale, donata proprio all'assistenza dei più diseredati, degli ultimi, per i quali aprì il suo cuore di padre, di pastore, e dove ancora oggi sono accolti e curati, per esempio, chi ha handicap gravi, gli anziani, gli ammalati, ci si dedica all'istruzione, all'educazione dei bambini, e dei giovani, soprattutto quelli più a rischio. Per esempio molte di queste suore sono presenti nelle comunità di tossicodipendenti, ma anche nelle scuole, negli oratori, cioè la loro parrocchia è il mondo in questo caso, ma soprattutto dove le persone sono più a rischio o vivono momenti di grande sofferenza e di grande dolore. Ma tornando a quei momenti, ogni domenica allora San Francesco Spinelli apriva le porte della casa madre per ospitare e far divertire i tantissimi ragazzi. Spiantava addirittura i telai, le macchine, faceva sparire i preziosi ricami per offrire loro più spazio per il gioco. E per gli incontri di catechismo dei fanciulli metteva sottosopra tutta la casa. Erano occupate tutte le stanze del pian terreno, anche i parlatori, le scuole di lavoro. E qui, dopo il catechismo, ragazzi e ragazze si fermavano a giocare fin verso sera. E allora, per dare più spazio, lui aveva ridotto a cortile anche quel poco terreno coltivato a giardinetto, facendo tacere le suore che giustamente brontolavano. E proprio dalla testimonianza di alcune suore che hanno vissuto con il padre, scopriamo come questo santo ha reso davvero concreto, palpabile l'amore di Gesù, con una carità che possiamo dire ha abbracciato tutte le opere di misericordia. Suor Filomena Vitali, che fu per tanti anni superiore generale, racconta che una volta si presentò un povero bisognoso di un letto, dormiva per terra e quindi chiedeva un letto. Il padre, che era in partenza per un paese, per Lenno, diede questa disposizione: cercate e trovate, non datemi questo dispiacere di rimandare questa persona a mani vuote e, se occorre, date il mio letto. Mostrato che sei, che mi hai trascinata perché viva di te, come solo tu potevi tu. Hai scelto me, mi basta questo amore, non ti chiedo di più. Vivo in... Ma vi racconto ancora, cari amici, qualche altro aneddoto della vita che fa splendere proprio la vita di santità di questo sacerdote, di questo fondatore. E qui ci viene detto che, terminato il processo, allora qui ci fu un processo, lui fu imputato in un processo a Bergamo e furono anni veramente travagliati, di grande dolore per lui, perché venne tradito, venne comunque mal consigliato e vedremo poi perché. Comunque dovette subire questo processo che addirittura portò al fallimento l'istituto, come però spiegherò adesso tra un attimo. Comunque, terminato questo processo, gli furono date da una persona amica 10 lire per il viaggio da Bergamo a Rivolta. Non aveva una lira, cioè era poverissimo. Incontrandosi però con un povero e non avendo spiccioli, gli diede le 10 lire e fece il viaggio di circa 30 chilometri a piedi, senza prendere nessun ristoro. E un'altra suora, Suor Gesuina Rama, ci dice di aver consegnato al padre un orologio d'oro ricevuto in dono da un benefattore. Essendo arrivato poco dopo e il padre lo aveva ricevuto un povero, questo povero aveva un debito da pagare con un ricco signore di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, ma non aveva il denaro. Cosa fece il padre? Prese l'orologio d'oro e lo consegnò a questo povero perché lo vendesse e pagasse il debito. Il pover'uomo però pensò bene di portare l'orologio direttamente al suo creditore, il quale, dubitando di un furto, gliene domandò la provenienza. Conosciuto poi l'atto generoso di padre Spinelli, glielo fece ritornare, condonando il debito. Insomma, bastava essere povero per entrare subito nelle sue grazie e non faceva nessuna preferenza. Ma non solo questo, la particolarità di questo santo è che mette in pratica anche quello che dice oggi Papa Francesco: tra i sacerdoti devono amarsi, devono condividere, confrontarsi, essere amici. Questo santo fu particolare anche sotto questo aspetto, infatti, e c'è addirittura un libro che parla di questo, amò di particolare tenerezza i sacerdoti sia diocesani che religiosi, e la sua carità vera, paziente, possiamo dire forte, la sua preghiera e la sua penitenza, e quanta penitenza ha fatto, ridavano proprio forza allora ai sacerdoti in difficoltà, dei quali egli spesso era confidente, l'amico in cui riporre piena fiducia, perché sapeva illuminare, sapeva confermare il loro cammino. Quanti di questi sacerdoti anche allora vivevano momenti di prova come oggi, anche di come si potrebbe dire, di buio della fede. E allora lui li aiutava e fece della sua casa, a Rivolta d'Adda, come vedremo, un cenacolo sacerdotale, dove tutti potevano trovare alloggio, vitto, fraternità e sostegno. Era felice di donare qualcosa ai confratelli di vocazione. Insomma, questo santo ha veramente dato tutta la sua vita alla carità, per donarla agli altri. Un amore pieno, abbiamo visto, maturato e custodito nella preghiera. Preghiera sempre, adorazione sempre, ma un amore fatto anche di attenzioni, di premure, di dolcezza. Una carità che proprio nel momento doloroso della prova, della calunnia e del tradimento si è fatta perdono. E sono, guardate, significative le parole che lui rivolge alle sue suore quando, e lo vedremo tra un attimo, vittima di imbrogli e di inganni, deve dichiarare fallimento ed è costretto ad abbandonare l'opera che ha iniziato a Bergamo, non solo a troncare ogni rapporto con il suo istituto e persino ogni corrispondenza verbale o epistolare con le sue suore, come vedremo la curia decise così. Ma vediamo cosa successe. All'inizio, nei primi anni, per ampliare la casa un po' piccola, per il numero di persone che ospitava, ce n'erano tantissime, anche perché c'erano tanti ragazzi che volevano entrare, quindi come novizie, no? E far parte di questa bellissima fondazione. Lui non era esperto di economia né di compravendita, cosa fa? Si affida ciecamente a chi riteneva persona capace, tanto più che questa persona a cui si era affidato e di cui si fidava era proprio il segretario del Vescovo di Bergamo, quindi era tranquillissimo. Insomma, sta di fatto che questo segretario, in buona fede, in cattiva fede, insieme ad altri, lo coinvolse in un fallimento perché si fecero dare, gli fecero firmare dei documenti da parte della banca che diede i soldi. Insomma, i soldi alla fine non c'erano più, non si capisce bene che fine fecero, e quindi la banca fece degli atti che portò al fallimento praticamente l'istituto. Fu una cosa desolante per lui, profondamente amareggiato, perché si sentiva veramente tradito. Questo fallimento venne dichiarato il 19 gennaio del 1889 e nel 91 subirà questo famoso processo. Dicevamo, fu, cari amici, il calvario più doloroso. Però possiamo anche pensare, in un momento di così grande sofferenza poteva essere aiutato dalle sue suore, ma dicevamo ne fu allontanato perché la curia lo trasferì nella casa del clero di Sant'Antonino prima, ma ironia della sorte, questa casa del clero era proprio di fronte alla casa madre delle suore adoratrici. Ma quello che vorrei dire sono quelle poche parole che pronunciò mentre usciva dall'istituto. Disse alle suore: non porto con me un centesimo, sono fallito, ma non ho tradito. Piuttosto altri hanno tradito la mia buona fede, ma perdono di cuore, pregate, state unite e l'istituto continuerà. Dicevamo, quindi San Francesco Spinelli è costretto ad uscire, quindi ad abbandonare l'istituto, non potrà più riprenderlo, e quindi cosa succede? Per portarla avanti, la nostra Santa Caterina Gertrude Comensoli fonda lei, riprendendo proprio la casa di Bergamo, le sacramentine, le suore sacramentine. Tornando invece al nostro San Francesco Spinelli, dicevamo non poteva comunicare con le sue suore né in modo verbale né epistolare. Possiamo immaginare, era moralmente e fisicamente distrutto. Era un dolore atroce. Anche la stessa Santa, Santa Caterina Gertrude Comensoli, soffriva enormemente con lui, ma non poteva fare assolutamente nulla, perché erano entrambi nell'obbedienza. E il Calvario giunse all'apice il 4 marzo dell'89, quando dovette lasciare appunto la casa del clero di Bergamo e si diresse appunto a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Era poverissimo e qui la raggiunse con i soldi che gli donò il rettore proprio della casa del clero. E si presentò alla comunità delle suore di quella casa filiale, quindi la casa madre era a Bergamo prima, avevano però anche qualche filiale, tra cui questa, e lui andò a Rivolta d'Adda e chiese alle sue suore se erano disposte ad affrontare fatiche, e ce n'erano tante, anche per la povertà che c'era, anche i disagi, per dare continuità alla congregazione delle suore adoratrici. La risposta fu positiva, tutte aderirono eccetto una, e in questo nuovo istituto il nostro santo fu superiore fino all'ultimo giorno di vita. Furono 23 anni di intenso e proficuo apostolato, in cui egli riuscì a rinnovare tutte le opere che erano state soppresse, a fare in modo soprattutto che tanti infelici potessero contare su una vera assistenza, non solo materiale, ma soprattutto spirituale, in una, possiamo dire, comunione meravigliosa tra contemplazione eucaristica e carità. Ma io dico, entriamo insieme, cari amici, proprio negli anni, in quegli anni viviamo con San Francesco Spinelli questo suo cammino. Proprio abbiamo visto in questa prova la carità di Don Francesco splende davvero di perdono verso i nemici e sono forti e grandi le parole del suo testamento. Lui scrive così: «Protesto di amare tutti e di non avere il minimo rancore con alcuno e a quelli che volontariamente o no hanno concorso a recarmi dispiaceri e danni, prego il buon Dio che renda loro altrettanto di bene e più di quello che mi hanno fatto di male». Proprio questa è la dolce vendetta d'amore tanto cara a lui, un consiglio che spesso rivolgeva anche alle sue suore, soprattutto davanti a torti subiti, e diceva: «Vendichiamoci col silenzio, con la preghiera, e se fosse possibile far tanto più di bene a chi ha voluto far del male. Perdona, perché non di rado sbagliamo anche noi. Perdona», diceva alle sue suore, «tanto più generosamente e soavemente quanto più cordiali e stretti sono i vincoli che ti legano alle sorelle. Perdona, così che non rimanga in te nessuna amarezza e ricompensa con carità smisurata». E proprio perché lui aveva avuto momenti appunto di buio e di croce, volle dare consigli e dettarli alle sue figlie che vivevano momenti di difficoltà perché si aprissero alla speranza e i momenti bui diventassero poi aurore luminose, e scrisse: «Verrà il mattino della celeste rugiada e il deserto si farà splendido giardino». E proprio la forza della sua fede diventava quindi fiducia cieca nella provvidenza, e non esitava a dare tutto quello che aveva, perché sapeva che Dio è un padre che non abbandona mai i suoi figli e da loro di cui hanno bisogno. E sentite questa testimonianza. Durante il processo di questo fallimento si dovevano pagare all'avvocato 100 lire per ogni seduta, insomma era una somma piuttosto importante. Un giorno, non avendo la somma da anticipare, padre Spinelli disse alle suore: «Abbiate fiducia, dico la Santa Messa, fate la comunione e Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, nel cui santuario avrebbe celebrato, provvederà». Dopo la messa, uscendo da chiesa, una signora presentò alle suore una busta contenente la somma necessaria per pagare l'avvocato, chiedendo preghiere. Non solo, questo ci dà l'idea della statura e della santità di questo meraviglioso sacerdote. Un'altra testimonianza. Accade che un giovane di un paese vicino a Rivolta d'Adda pagò un lavoro di ricamo su una bandiera con monete di rame. Questo ragazzo faceva parte di un'associazione cattolica, quindi le suore avevano ricamato questa bandiera per l'associazione e lui le aveva pagate con delle monete di rame raccolte in rotoli di carta. La superiora prende i rotoli dal ragazzo e li dà poi alla suora perché paghi il prestinaio. Dicevamo, la povertà imperava allora. Con meraviglia però, scartocciando il rotolo, la suora si trova nelle mani delle monete d'argento, quindi era una differenza abissale. Insomma, nessuno si spiega il fatto. Padre Francesco però, sospettando un errore, fa interpellare il giovane che conferma di aver pagato con monete di rame raccolte con pazienza in seno all'associazione e conclude anche che se il padre aveva il potere di convertire il rame in argento, si tenesse pure in pace quelle monete. Alla fine la sola portinaia sentì il giovane commentare: «L'ho detto io che quest'uomo è un santo». Sono episodi, cari amici, ma sono soprattutto espressione di una fede meravigliosa, capace davvero di spostare le montagne. E Padre Francesco attingeva la forza di perseverare nella speranza, nella carità che nasce dalla preghiera, dall'adorazione in particolare, dall'amore a Gesù presente nell'Eucaristia. Proprio rileggendo alcune pagine delle conversazioni eucaristiche, restiamo colpiti dall'intensità del suo amore per Gesù. Ed era un'intensità vera, profonda. Sentite cosa diceva Gesù. Diceva: «Io non desidero altro al mondo che amarti». «Sì, Gesù, il mio cuore gioisce di potersi trovare ad ogni istante alla tua presenza, di poter godere della tua amabilissima compagnia, di intendersi con te, cuore a cuore, sopra i disegni e i desideri amorosi della tua santissima volontà. Mi rimetto e mi abbandono totalmente tra le tue braccia, non avendo altra speranza che nel tuo aiuto. Sì, solo tu sei l'unico Signore del mio cuore e della mia volontà. Tu l'unico mio bene, il mio confidente, il mio amore, il mio paradiso, il mio tutto. Questo ardentemente desidero, di essere trasformato in te, ossia che tu sia in me e io in te, e così diventiamo un sol cuore e un'anima sola. L'anima mia si compiace di stare in te, tienila stretta con te e in te ogni giorno della sua vita». E proprio in questa adorazione a Gesù Eucaristia, San Francesco Spinelli trovava proprio quel conforto, quella pace, quella serenità, soprattutto nei momenti dolorosi della prova, dicevamo, non gli mancavano. Erano giorni di grande prova, per la grande povertà in cui anche si viveva, ma la fiducia nella provvidenza era veramente immensa e ancor di più davanti all'Eucaristia lui diceva a Gesù queste parole: «Permettimi, Gesù caro, che versi l'amarezza dell'anima mia nel mare immenso della dolcezza del tuo cuore e in esso venga dissolto ogni risentimento, ogni viltà di spirito e di orgoglio. Da te solo voglio essere consolato, e la mia consolazione sia di potere e di sapere fare ciò che piace a te e soltanto per piacere a te». E proprio questa esperienza, questa sua esperienza fortissima dell'adorazione che trasformava il suo cuore ogni giorno di più proprio nell'unione con Dio, questo lo condivideva poi con le sue suore nelle lettere che mandava. Ormai non erano soltanto rivolte ad Adda, ma erano anche in altri luoghi, e le esortava a percorrere senza mai stancarsi la via sicura proprio dell'unione con Gesù. E allora scriveva: «Se mi domandate, carissime, se sia necessaria a noi la preghiera, io vi rispondo», perché c'era molto da fare durante il giorno, allora ci si chiedeva: ma è più importante fare o pregare? Lui diceva: «La preghiera è necessaria come l'aria al respiro, come l'acqua all'inaridita campagna, come il sole all'oscurità, come la medicina all'infermo, come la forza ai deboli, il conforto ai tribolati. Vi raccomando, quanto so e posso, l'adorazione, figliole. Essa te ravviva nel cuore la fede, florida la speranza, accesa la carità. Sarà la vostra luce nei dubbi, forza alla debolezza, farmaco nelle infermità spirituali, dolcezza, conforto ineffabile nelle amarezze del terrestre pellegrinaggio. E diceva: aprite il tabernacolo, incinocchiatevi davanti a quel Dio d'amore che vi dà e vi dona il suo corpo e il suo sangue. E lui, incinocchiato davanti all'Eucaristia, contemplava con grande stupore, con cuore aperto e con la meraviglia di un bambino, proprio la grandezza dell'amore di Dio, di questo amore che Dio ha per l'uomo, e diceva: vengano, Gesù, tutte le genti a riconoscerti, ad adorarti, amarti, glorificarti, già che tu solo sei Dio grande in tutte le cose e soprattutto nell'amore che porti a noi, amore che ti ha fatto inventare la meraviglia delle meraviglie, il prodigio dei prodigi, questo eucaristico augustissimo sacramento. E dalla contemplazione dell'amore di Dio, cari amici, sgorgava spontanea dal suo cuore la lode e un profondo sentimento di riconoscenza. E proprio da questa contemplazione, cari amici, che plasmava il suo cuore, nasceva il bisogno di corrispondere a questo amore di Gesù infinito con altrettanto amore. Ed era proprio la necessità allora di farsi dono agli altri. E allora pregava così: con un eccesso di carità non più udita, hai voluto rimanere con gli uomini, Gesù, fino alla fine dei secoli, stabilendo la tua abitazione e dimora tra di loro, nel santissimo sacramento del tuo amore. Tu hai fatto così, per offrir loro l'occasione di vederteli davanti e di riversare su di loro i tuoi incessanti benefici e sempre nuove grazie. Ed essi cosa fanno? E io come ti corrispondo? Tu godi e trovi la tua felicità nel farmi del bene, e io? Io sento già un grande desiderio di corrisponderti, di amarti, ma invece del desiderio vorrei sentire un cocentissimo amore per te. E vorrei realmente averti corrisposto come propongo di corrisponderti maggiormente, oggi e sempre. Ma dove e da chi potrò imparare ad amarti quanto meriti? Sì, qui, da te stesso, dal tuo ardentissimo e amorosissimo cuore. Accendimi del tuo stesso amore, che io possa dimostrarti con i fatti l'amore che ti voglio e che meriti. Aveva in queste frasi c'era anche il suo dolore, perché non si sentiva innanzitutto degno, ma soprattutto lui sentiva che non corrispondeva a Gesù quanto avrebbe dovuto. Era un bisogno forte di corrispondere, amore per amore, e voleva fare tutto per Gesù. E possiamo dire che fece della sua vita un'eucaristia piena, proprio un pane spezzato che continuamente, cari amici, e gratuitamente si donava ogni giorno, in ogni momento, e si consegnava ai fratelli più bisognosi. Ma questo perché tutti potessero conoscere l'amore di Dio, soprattutto la sua misericordia, la sua carità, e infine perché fossero salvi. Quante persone ha riportato alla fede San Francesco Spinelli. E in questo caso raccomandò per esempio ad una sua suora: vivi consumata in Gesù. E proprio il tabernacolo è per lui la vera scuola di vita, e dirà più tardi, sempre riferendosi alle sue figlie: il tabernacolo sia la vostra scuola, il vostro giardino, il vostro soggiorno di virtù e di pace. E da Gesù Eucaristia imparava come deve essere l'amore, cioè fino alla morte. Dirà ad una suora che era dispiaciuta per le sue cadute, e lui per consolarla diceva così: ma questo può servire anche a noi. Gli diceva: per salvarci, Gesù non ha a sé risparmiato alcun disagio e dolore, così noi dobbiamo amare il prossimo. Perché ti avvilisci alla prova dei tuoi peccati e delle tue cadute? Credi forse che Gesù abbia ristretto il suo cuore e la sua mano? qui, scusate, faccio un piccolo inciso, quante volte Gesù anche a Santa Faustina Kowalska ha detto che lo ferisce profondamente quando noi non abbiamo fede in Lui, che possa perdonarci ogni cosa, che è la cosa che lo ferisce di più. E riprende San Francesco Spinelli a questa suora, scaccia ogni scoraggiamento, perché Gesù trova la sua gioia nel sollevare i caduti, nel rafforzare i deboli. E proprio nonostante la fatica e i sacrifici, non desisteva mai dall'esortare le sue figlie al perdono e diceva: compatite, perdonate, ricambiate i torti con generosi benefici, nessuno possa dire male di voi, anzi, tutti siano costretti a benedire i sacrifici della suora, che non fa distinzioni tra ricchi e poveri, tra vecchi e giovani, che perdona le offese e le ingratitudini, che diventa occhio al cieco, piede allo zoppo, madre all'orfano e derelitto. Ella è per tutta per tutti, specie negli infelici vede con l'occhio della fede e col palpito della carità l'oggetto del suo più puro amore, vede e ama Gesù. Vediamo, non è una santità fatta di cose grandi, ma è normale, di un quotidiano, di una normale quotidianità, vissuta però nell'amore a Gesù Eucaristia e soprattutto, abbiamo visto, consumata nel servizio ai fratelli e nelle opere di carità. E oggi questo spirito di questo fondatore vive ancora e opera nelle sue figlie, le suore adoratrici del Santissimo Sacramento. E ha dato tutto se stesso nella sua vita e dopo tante lotte, tante penitenze, tante fatiche, il Signore adesso lo chiamava a sé. Arriviamo infatti, cari amici, al 25 dicembre del 1912, quando celebrò il giorno di Natale la sua ultima Santa Messa. Alcuni mesi dopo, il 5 febbraio del 1913, ricevette il viatico perché stava malissimo e il giorno seguente, il 6 febbraio, morì, circondato dalla fama di santità. Aveva 60 anni. Alcuni anni dopo, la sua salma fu posta nella chiesa della casa madre dell'istituto a Rivolta d'Adda e nel 1992, il 21 giugno, proprio nel santuario di Caravaggio, fu dichiarato beato da San Giovanni Paolo II e il 14 ottobre del 2018 verrà poi canonizzato da Papa Francesco. Lui è il Signore e regna nel cielo. Lui è il Signore. Nel buio parlò e la luce creò. Lui è il Signore. Nessuno è come Lui. E vi racconto, per chiudere la nostra trasmissione, il miracolo preso in considerazione dalla Santa Sede per la sua canonizzazione e riguarda la guarigione inspiegabile di un neonato avvenuta 11 anni fa, nel 2007, a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, dove proprio le suore adoratrici sono presenti dal 1958. Qui in questa città, nel popoloso quartiere di Binza, le religiose gestiscono un grande centro di maternità dove nascono ogni giorno 20-30 bambini e tutte le gestanti sono assistite da queste suore, ma anche da medici e infermieri. Qui, il 25 aprile del 2007, nasce il piccolo Maria Ambrozo. Mamma e figlio stanno bene, tanto che la mattina dopo vengono entrambi dimessi. Succede però che mentre la mamma si incammina a piedi verso casa, fa un passo falso e rischia di inciampare e per non far cadere il piccolo lo stringe a sé in modo forte, troppo forte perché quella stretta provoca un'emorragia al bambino che in poco tempo perde una quantità enorme di sangue. Spaventatissima la donna, erano passate 2 ore da quando era stata dimessa, torna di corsa al centro maternità per chiedere aiuto. Le suore però che accolgono il bambino si rendono subito conto della gravità del caso. L'unica possibilità di salvezza è una trasfusione di sangue per sostituire quello, ed era tantissimo, che il piccolo aveva già perso. Ma il problema è che anche lo stato di sofferenza è così avanzato che le piccole vene del neonato sono appiattite. E qui medici, infermieri cercano ovunque disperatamente per quasi un'ora una vena in cui poter inserire la siringa per la trasfusione, ma senza esito. intanto la situazione si aggrava ancor più. Non sono purtroppo possibili, almeno in quel centro, altri tipi di intervento, quindi l'unica speranza era trovare una vena, ma non si trova. Non si trova tanto che qualche ora dopo il medico esce sconsolato dalla stanza, dichiarandole ormai la morte certa. E qui interviene suora Adeline. Suora Adeline, che è una suora adoratrice, dice così: a un certo momento poi il bambino ha fatto un respiro profondo, come fosse l'ultimo sospiro, ormai sicura della morte imminente. Ma proprio lei, suora Adeline, responsabile della maternità di Binza, testimonia: sono uscita dalla sala e sono andata in casa, che è a Tigua. Lì ho trovato la mia superiora, suora Antonietta Musoni, e le ho detto: suora Antonietta, prega, c'è un bambino che sta per morire. Accesa una lampada in cappella davanti all'immagine del padre fondatore, suora Adeline prega il padre così: padre, aiutaci, aiuta questo bambino che sta per morire, io metto la mia fiducia solo in te. Prende quindi un'immaginetta di padre Francesco e la fa scivolare sotto il lenzuolino del neonato, steso sul lettino ormai inerme, ormai morente. Improvvisamente, lì dove per quasi un'ora tutti avevano cercato una vena, non uno, ma diversi testimoni vedono apparire come per miracolo, questo detto da loro, una grossa vena come quella di un uomo adulto, tanto che senza alcun problema inseriscono l'ago per la trasfusione e il bambino piano piano riprende vita, iniziando a scalciare e a piangere. Insomma, in pochi minuti si rimette e dopo poche ore entrambi sono dimessi dal reparto. Possiamo immaginare la gioia di quella madre e di quel papà, e proprio da quel momento i genitori, consapevoli dell'evento straordinario per il loro bimbo, che dicevano era già quasi morto ma è risuscitato, questo come testimonia il papà, come atto sincero di amore profondo e di grande riconoscenza, cambiano il nome bambino, al bambino, che da Ambrosio Maria Diez viene chiamato Francesco Maria Spinelli Diez.